bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico. E ora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo: ne ho abbastanza, bella stronza, che ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti con il culo sul Ferrari di quell'essere arrogante. Non lo sai che i miliardari anche ai loro sentimenti danno un prezzo, il disprezzo, perché forse io ti ho dato troppo amore, bella stronza che sorridi di rancore. Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto, inconsapevoli che il tempo è infinito tranne il nostro. Se vivi di apparenze, i giudizi ti feriscono. Ora siamo due strani che si conoscono benissimo. Ora passo notti insonne per colpa dei sogni brutti. Pensavo ci ameremo così forte che si sveglieranno tutti. Ma se Dio ti ha fatto bella come il cielo e come il mare, a che cosa ti ribelli, di chi ti vuoi vendicare? Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna, gli occhi aperti e ribaltati, dalla bocca esce la schiuma. Ti ho scritto quattro pagine, mi hai risposto con due righe. Sei una statua di sale appoggiata sulle mie ferite. Ho visto tutti i miei castelli dissolversi in granelli. Mi chiedo perché le trappole hanno occhi così belli. E quella notte eri ubriaca, eri un silenzio ad ascoltare. Hai detto che sono la ragione per cui non riesci più ad amare. Ma come tutto può finire ancora prima di iniziare? Una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male. Ma se Dio ti ha fatto bella come il cielo e come il mare, a che cosa ti ribelli, di chi ti vuoi vendicare? Ma se Dio ti ha fatto bella come un ramo di ciliegio, tu non puoi amare un tarlo, tu commetti un sacrilegio. E ogni volta che ti spogli, ehi, non lo senti freddo dentro. Grazie a me ora confondi lo schifo con l'amore. Chi cerca quello che non deve, trova quello che non vuole. Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero. Grazie a me ora confondi lo schifo con l'amore. Chi cerca quello che non deve, trova quello che non vuole. Perché sei bella, bella. Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero. E allora ti saluto, bella stronza.